Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente sotto i riflettori anche per quello che riguarda l'attualità economico-finanziaria, previsto. A questo punto ci sono pochi dubbi: attacco americano alla Siria. Avete sentito anche dai nostri GR, indiscrezioni della Casa Bianca, collocherebbero al più presto giovedì, tra giovedì e poi venerdì, e il fine settimana l'attacco missilistico, da quanto siamo in grado di capire, alla Siria. Questo ha avuto ripercussioni immediate su tutte le borse, e devo dire che oggi non è Milano a fare eccezione, nel senso che Milano perde il 2,20%, Parigi il 2,30%, Francoforte il 2%, Londra ieri chiusa per festività, oggi perde lo 0,70%, l'America lo 0,60%. Ha avuto anche ripercussioni immediate questa mattina su tutte le borse del Medio Oriente, le borse del Golfo soprattutto, perché a Dubai l'indice complessivo ha perso il 7%, con in calo soprattutto i titoli legati al mondo immobiliare, che a Dubai, come molti sanno, sono tra i titoli più capitalizzati. Il colosso immobiliare Emaar è crollato dell'8,36%. La borsa del Kuwait ha perso un 6%, l'Arabia Saudita, che è il più grande mercato azionario del mondo arabo come capitalizzazione, ha chiuso la borsa con un calo del 4%, questo poi ha avuto una ripercussione anche sulle borse europee. Da noi poi ci sono anche i timori sulla tenuta del governo, tant'è che in Italia lo spread oggi è salito ulteriormente, non a un livello, diciamo, drammatico, siamo ancora a 260 punti. Quello che lascia più perplessi, diciamo, è il fatto che la differenza tra noi e la Spagna continua a ridursi. Noi viaggiavamo negli ultimi mesi con 30-40 punti di differenza con la Spagna, cioè eravamo considerati un po' più affidabili della Spagna, e quindi ci costava meno rispetto a quanto non costi alla Germania, rispetto a quanto non costi la Spagna, trovare finanziatori per il nostro debito. Adesso la differenza tra noi e la Spagna si è ridotta oggi a soli 2 punti, sostanzialmente identica, e questo in chiave relativa dimostra le tensioni poi tutte e le preoccupazioni tutte italiane sulla tenuta del governo. Il Tesoro però oggi ha collocato quasi 3 miliardi di CTZ a 24 mesi, con un tasso in leggero rialzo all'1,87% contro l'1,85% del mese scorso. Ho collocato anche 1 miliardo di BTP indicizzati all'inflazione, e tassi al 2,30% e al 3% per quello che riguarda la scadenza settembre 2018 e al 3,30% su settembre 2026. Anche qui, per non creare allarmismi, sono leggerissimi rialzi. Oggi sicuramente pesa più la Siria di qualunque tensione interna alla politica italiana. Tra i titoli segnalo che vanno male di nuovo soprattutto le banche: Intesa San Paolo perde il 4,40, Unicredit il 4%, Mediobanca il 3,90, il Banco Popolare perde il 3,80, e ancora un titolo come UbiBanca cede il 3%. Male anche Buzzi Unice, meno 4,20, e è nel meno 3%, A2A meno 3,80%, Fiat meno 3,70%, bene invece Autogrill più 0,60% ed Eni più 0,35%. Il recupero dopo il calo di ieri anche G-Tech ex Lottomatica più 0,34%. Ci occuperemo quindi molto del fronte internazionale, ma anche del fronte italiano, in quella che ormai alcuni chiamano il rompicapo IMU, perché prosegue il dibattito sugli interventi sull'IMU. Le risposte definitive dovrebbero arrivare dal Consiglio dei Ministri fissato per domani, e anche di questo parleremo mai in apertura. Come sempre però, prima di tutto le notizie in breve. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Visto che abbiamo aperto con le notizie internazionali, continuiamo, perché al di là delle borse del Golfo, delle borse medio orientali, delle borse europee, oggi c'è stato un calo molto forte in India, alla borsa di Mumbai, che ha perso oltre il 3%, il 3,20%. Giornata nera, perché questo? Perché non c'entra in questo caso la crisi siriana, ma il pessimismo sulle prospettive dell'economia indiana, e tra l'altro il ministro delle finanze indiano di nuovo ha sostenuto oggi che la rupia è nettamente sottovalutata. Però insomma, i timori sono su una crescita indiana molto molto debole rispetto agli anni scorsi. Nel 2013 invece la Cina dovrebbe essere in grado di raggiungere l'obiettivo fissato di una crescita al 7,5% quest'anno. Ha fatto un più 7,6% nei primi sei mesi dell'anno, che a noi sembra una crescita incredibile, ma in Cina è la peggior crescita degli ultimi tre anni, anche se in linea con le attese del mercato. Come vanno le materie prime, a maggior ragione quando c'è una crisi internazionale come questa? Beh, l'oro in realtà è in calo, è sotto la soglia dei 1.400 dollari l'oncia, siamo a 1.396. Il petrolio invece è in netta crescita, quasi il 3% oggi in più, a 108,7 dollari al barile. Ancora per quello che riguarda le notizie che arrivano dall'estero, io resto un po' perplesso, ma forse una perplessità solo mia, da quanto oggi pubblica la televisione americana che si occupa di finanza, specializzata in finanza, CNBC, perché insomma deve essere rinnovata la carica di numero uno della Banca Centrale Americana. Ben Bernanke infatti scade come mandato il prossimo 31 gennaio. È chiaramente la carica più importante che c'è negli Stati Uniti e come banchiere centrale possiamo dirlo forse il più importante al mondo. Ebbene, secondo le indiscrezioni della CNBC, che citano fonti vicine al team di Barack Obama, in corsa per diventare il numero uno della banca centrale più potente del mondo sarebbe niente proprio di meno che Lawrence Summer. Chi è Lawrence Summer? Lawrence Summer è stato sicuramente tra i principali consiglieri economici di Obama, ma è stato anche uomo di punta del consigliere di Bill Clinton. La cosa che lascia perplesso il sottoscritto è che secondo molti Lawrence Summers è stato il vero teorico barra artefice, con la sua capacità anche di consulenza politica, di quella grandissima operazione di deregolamentazione dei mercati finanziari che ha prodotto poi tutti gli elementi per arrivare alla bolla del 2008 e alla crisi finanziaria che ancora stiamo vivendo. Fu lui infatti nel 98, nel ruolo di vice ministro al tesoro, a sostenere che bisognava eliminare la separazione tra la banca di investimento e la banca commerciale, cioè quello che poi è alla base di tutto il casino in cui siamo finiti, ossia la banca che raccoglie i soldi del risparmiatore una volta non poteva, era il Glass-Steagall Act, non poteva utilizzare questi soldi per fare investimenti di carattere speculativo, investimenti veri e propri, doveva avere, sì, farli fruttare, ma non poteva essere banca di investimento. Lawrence Summer elimina questa separazione, che era il frutto di una legge che cercava di prevenire quello che era successo e di evitare che ricapitasse quello che era successo nel 29, e guarda caso le coincidenze, lui la elimina, e definendo questa eliminazione della separazione tra banche commerciali e banche d'affari, banche di investimento, un grande passo in avanti nell'industria bancaria americana. Si è visto poi cosa è successo tra Lehman Brothers e le altre banche, e fu anche quello che chiese una deregolamentazione dei mercati dei derivati, anche qui, no? L'elemento tossico di questa crisi per eccellenza, sostenendo al Congresso americano che essendo i sottoscrittori di derivati istituzioni finanziarie, quindi banche, comunque operatori finanziari, erano assolutamente in grado di proteggersi da frodi e rischi di insolvenza. Caro Summers, i derivati invece poi le banche d'affari li hanno venduti a tutti, compreso il comune di Taranto, il comune di Milano, il comune di Verona, a qualunque tipo di soggetto, altro che capacità di proteggersi da frodi e rischi di insolvenza. E il buco che si è creato è costato 2.000 miliardi almeno di intervento solo in America dello Stato per salvare il sistema finanziario americano, perché c'erano anche AIG, c'erano le società che erogavano mutui, le banche che erogavano mutui, cioè tutto questo sistema. Il grande teorico, il grande esecutore politico fu Lawrence Summers, che adesso potrebbe diventare il numero uno della Federal Reserve della serie. Non è servito. Se fosse così, le elezioni del passato non sarebbero servite a nulla. E poi è vero criticare l'Italia, ma anche in America i conflitti di interesse evidentemente non sono poca cosa. Comunque non ci voglio credere, speriamo che non sia così. Ancora, per quello che riguarda le notizie europee, il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, il Falco, è tornato oggi a parlare di Grecia, perché dopo aver quantificato in 11 miliardi di euro il volume e il valore di un terzo pacchetto di aiuti alla Grecia, ha detto, mi sembra la cifra più probabile, e poi però ha aggiunto mai più salvataggi come quello della Grecia. Un'Europa più forte significa che ciascuno deve fare la propria parte e non chiedere soldi agli altri, che è il modo sbagliato di intendere un'Europa più forte. Siamo d'accordo sul principio, siamo anche d'accordo sul fatto che mai più ci debba essere un salvataggio gestito in maniera così maldestra, goffa e anche pericolosa come quello che l'Europa ha messo in piedi per la Grecia. Ricordo che salvare la Grecia a metà del 2010 sarebbe costato 100 miliardi di crediti che molte anche banche tedesche vantavano nei confronti della Grecia, perché i soldi li avevano prestati alla Grecia, e che il tentennamento, l'indecisione e la generata anche dalla posizione tedesca è costata solo nel 2011 1.600 miliardi di capitalizzazione alle borse, con la conseguenza poi di dare l'impressione a tutti gli investitori internazionali che l'Europa non fosse in grado di salvare non solo la Grecia, ma di salvare anche il Portogallo, la Spagna, l'Italia, facendo partire quel gioco all'attacco dei debiti sovrani che ben ricordiamo, con lo spread italiano a 500 punti e quant'altro. Quindi siamo d'accordo, mai più salvataggi fatti con il metodo utilizzato per la Grecia. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Prima di arrivare al caso siriano, restiamo in Italia. Domani infatti il Consiglio dei Ministri, che ha al centro un oggetto in primo luogo, l'IMU, e capire esattamente, visto che il Premier Letta ha parlato di misura strutturale, quindi non un rinvio, non pro tempore, come si stia orientando il governo. Su questo oggi l'intervento del segretario del PD Guglielmo Epifani, che ha detto non accettiamo ultimatum, è anche interesse nostro riformare l'IMU, ma non c'è solo l'IMU per il PD. Ma noi non accettiamo nessun ultimatum, noi ragioniamo per il bene del Paese, è anche interesse nostro superare e riformare l'IMU, ma non c'è soltanto l'IMU, perché c'è anche il tema degli investimenti nella scuola, dei cassa integrati che vanno rifinanziata la loro cassa integrazione, c'è il grande tema naturalmente degli esodati che non possono essere dimenticati, e in prospettiva ci sono grandi questioni, il costo dell'energia, la condizione del turismo, l'abolizione dell'aumento dell'IVA che in una condizione come questa dei consumi finirebbe per comprimere ancora di più i consumi e pesare nelle tasche degli italiani. C'è un complesso di misure che bisognerà affrontare tenendo conto di che cosa? Della disponibilità finanziaria, che sono possibili, non è che abbiamo dei vincoli e che dentro questi vincoli bisogna agire. Quindi il governo per noi deve andare avanti facendo le cose buone che sta facendo, deve continuare a rafforzare, a fare nelle prossime scelte. Così appunto il segretario del PD Guglielmo Epifani. Vedo molti ascoltatori che mi segnalano loro che invece ha ripreso le quotazioni negli ultimi minuti a 1420 dollari l'once. Adesso verifichiamo, non riesco a farlo io durante la diretta, ma ci mancherebbe. E quindi, oltre che il petrolio risalito del 3%, anche l'oro, la quotazione che avevo dato era riferita alla chiusura dei mercati asiatici, ma anche l'oro è tornato a risalire, anche se non a livello preoccupante, ma insomma 1420 dollari. Queste sono chiaramente reazioni sulla scia delle tensioni in Siria. Ma noi restiamo in Italia, perché da quello che io ho capito, se, almeno se ho capito bene, la rata di maggio sui terreni agricoli, sulla prima casa, che vale 2 miliardi e 4, è sospesa, questo lo sappiamo tutti, e ci sarebbero già i fondi per coprirla, cioè per non farla pagare, 2 miliardi e 4. Per eliminare la rata di dicembre, sempre sulla prima casa e sui terreni agricoli, servirebbero altri 2 miliardi con coperture ancora da stabilire. Si parla dell'introduzione di una service tax che andrebbe a sostituire il precedente tributo con modifiche decise. Confermato invece il prelievo su imprese e capannoni industriali, di questo parleremo perché ci sono nuovi studi oggi. Ma poi le voci sono circolate su un aumento delle accise sull'alcol, sui tabacchi, sui giochi, o un inasprimento delle aliquote sulle seconde case. Gianni Trovati, aiutaci tu, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, tu hai capito qualcosa? Perché rompicapo IMU mi sembra la definizione più esatta, ormai è da maggio che andiamo avanti con il balletto sull'IMU. Ti ritrovi in quello che è stato il mio racconto, cioè la prima rata, quella di sospesa da 2004 di maggio, dovrebbe avere già una copertura, mancherebbe quella sulla rata di dicembre? Sì, siamo sempre a questo punto qua. Diciamo che però a questo punto il tempo è scaduto per decisioni di rinvio ulteriore, eccetera, per cui è molto probabile che la rata di giugno, dimentichiamocela, nel senso quella è andata e per ora è vero che è formalmente sospesa, ma non la pagheremo più. Verosimilmente non pagheremo nemmeno la rata di dicembre, perché le coperture sono state quasi tutte trovate. Mancava poco meno di un miliardo, ma insomma un taglio di spesa di un miliardo si trova. Da un punto di vista tecnico, l'IMU sulla prima casa per il 2013 dovrebbe essere limitata alle sole cosiddette case di lusso, cioè le famose ville Castelli di cui abbiamo parlato più volte in trasmissione. Resta tutto il problema poi di che cosa fare dopo, nel senso che la sostanziale abolizione dell'IMU è essenziale per far continuare il governo almeno fino al voto sulla decadenza di Berlusconi, quindi almeno una settimana in più. Tuttavia rimane da definire tutto il quadro fiscale a regime, diciamo così, della casa. Hai citato giustamente la service tax, che è un'idea che viaggia da molto tempo e che finirà per sostituire probabilmente l'IMU come la conosciamo oggi, però non potrà escludere le prime case, perché la service tax, lo dice il nome stesso, è la tassa sui servizi. Chi usa i servizi del comune, prima di tutto chi ci abita, e conseguentemente è ovvio che una forma di tassazione sulla prima casa continuerà a esserci e non potrà sostituire la TARES ambientale, cioè la TAR sulla TIA, quello che cambiano nomi continuamente, ma la sostanza è la tassa sui rifiuti, perché la tassa sui rifiuti deve pagare i rifiuti. Mi rendo conto di dire cose piuttosto ovvie, però il dibattito incendiato dalla politica in queste settimane se n'è abbastanza dimenticato. Sì, e qui andiamo a un altro aspetto, perché tu citavi tassa sui rifiuti. Allora, oggi uno studio della Confartigianato stima un aumento medio di 26 euro per abitante, cioè il 17% in più rispetto a quanto avviene con l'applicazione degli attuali tributi sui rifiuti, no, nel passaggio con, sì, con la nuova tassa sui rifiuti della TARES, se non ricordo male. Sì. E questi andrebbero a sommarsi ai continui aumenti registrati comunque sulle tariffe sui rifiuti, quindi la vecchia TARSU tra marzo 2012 e marzo 2013 è cresciuta già del 5%. Ma in aggiunta, uno studio che già voi come Sole 24 Ore avevate elaborato è quello che va a verificare chi ha pagato o chi ha contribuito maggiormente all'IMU l'anno scorso. Allora, gli imprenditori da soli hanno fatto quasi il 40% dell'intero gettito, 9 miliardi e 200 milioni pagati l'anno scorso sotto forma di IMU sugli immobili, con rincari che con un meccanismo, diciamo, di rincaro automatico saranno ancora più pesanti quest'anno. Praticamente, se con la TARES alcune piccole imprese artigiane pagheranno anche il 300% in più, 300% in più, cito i panifici 93% in più, le pasticcerie 180% in più, dal gennaio 2013 l'imposta sui capannoni è anche più costosa, perché il prelievo è cresciuto dell'8%, cioè altre mezzo miliardo in più per le aziende. E anche perché il 50% dei comuni italiani ha aumentato l'aliquota di base da applicare agli immobili produttivi e un altro 50% ha mantenuto l'aliquota al 7,6 per mille, solo l'1% dei comuni l'ha ridotta. Come mai scattano questi aumenti automatici, Gianni, che fanno pesare ancora di più il contributo pagato dalle imprese all'IMU? Ora vi faccio notare che quasi 10 miliardi di tasse in più sul mondo produttivo è una mezza manovra finanziaria, eh? Per carità, servono, ma insomma, sì, anche farli una pagare intera, esatto, farli pagare tutto al mondo produttivo, vabbè, per carità, sì, sono... perché le aziende sono meno degli elettori, quindi probabilmente c'è anche un interesse forse politico. Le aziende sono decine di migliaia, gli elettori sono decine di milioni, però insomma sono 10 miliardi caricate sul mondo produttivo italiano. Prego, Gianni. Sì, e sono due volte e mezzo l'IMU sulla prima casa, così, esatto. Insomma, diamo, perché l'IMU sulla prima casa vale 4 miliardi. Vale 4 miliardi. Okay. Tutto il pacchetto sospeso vale 4,8 perché c'è dentro anche i terreni, l'IMU sui terreni agricoli che ancora pagavano. Invece sulle imprese questi aumenti sono figli di tutta una serie di mine normative infilate nel decreto Salva Italia di fine 2011 e lì dimenticate, nel senso che già il decreto Salva Italia di fine 2011 prevedeva un aumento lineare della base imponibile IMU per imprese, alberghi e così via, che ha fatto aumentare dell'8,5%, ripeto, in maniera lineare, quindi uguale per tutti. In più la legge di stabilità dell'anno scorso ha dirottato allo Stato l'intero gettito dell'IMU ad aliquota standard del 7,6 per mille, sempre sulla solita platea, capannoni e alberghi e così via. Ne consegue che ai comuni quel gettito lì non va più, e nei tanti comuni in cui gli immobili produttivi rappresentano una fetta importante della base imponibile totale, vengono applicate delle maggiorazioni locali per far quadrare i conti. La TARES infine introduce, senza una disciplina transitoria, il metodo che calcola la tariffa sulla base dei rifiuti prodotti, e ovviamente gli esercizi commerciali come i ristoranti, i bar, i fiorai eccetera si vedono moltiplicare l'imposta. La cosa curiosa è che chi segue queste materie lo sa, noi l'abbiamo scritto da mesi, mesi e mesi, però il dibattito si è incagliato sulla questione della prima casa. Sì, il dibattito casa, si è incagliato sulla questione, esatto. Sull'altare della prima casa sacrifica tutto il resto. Bravo, questo è il titolo, diciamo, sintetico. Perché, siccome politicamente, diciamola tutta, dai, politicamente paga di più, ma questo va bene, insomma, si può anche capire, non è nulla di nuovo. Paga di più fare un'operazione sull'IMU sulla prima casa, perché riguarda decine di milioni di proprietari italiani, e anche se il gettito complessivo era di 4 miliardi, e paga di meno occuparsi delle imprese, perché ripeto, numericamente sono meno e quindi sono anche meno voti, il risultato è che tutto il dibattito si è concentrato sui 4 miliardi di IMU sulla prima casa, che per carità ci stanno. Ci sono dimenticati dei 10 miliardi pagati dalle imprese italiane di IMU, e con un aumento quest'anno appunto di mezzo miliardo in più, che è una tassa in un settore, in un mondo, quello produttivo, che è già in difficoltà, in ginocchio, e si sono dimenticati delle norme introdotte anche per la nuova tassa sui rifiuti, che vanno a penalizzare esercizi commerciali che, diciamo, non è che proprio navighino sempre nell'oro, perché la pasticceria che paga il 180% in più di tasse sui rifiuti, il panificio che paga il 90% in più. E sì, dopo che gli è aumentata l'IMU del 200%. Dopo che l'IMU gli è aumentata del 200%, ora con tutto quello che uno può dire, ma immaginare che la ricchezza di questo paese si collochi nei panifici, nelle pizzerie e nelle pasticcerie. Sì, ecco, ci vuole un po' di sforzo, e soprattutto uno deve fare un giro per le città italiane e vedere se i proprietari di pizzerie, panifici e pasticcerie sono tutti nababbi, o invece spesso vendono anche gli esercizi commerciali cinesi che pagano in contanti in alcuni casi. Per cui, insomma, mi sembra che appunto per la logica di carattere elettorale poi si vada a sacrificare la logica di carattere produttivo, penalizzando categorie già in difficoltà, perché le categorie che ho citato sono già in difficoltà per il calo verticale dei consumi che c'è stato in questo paese negli ultimi due anni. Comunque, tant'è, grazie a Gianni Trovati, meteo, grazie pubblicità, e poi invece ci spostiamo tra gli Stati Uniti e la Siria, con le tensioni sui mercati e chiusura sui minimi per tutte le borse europee, meno 2,34% oggi. Milano 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. minuti. Iniziamo adesso una lunga pagina che riguarda la tensione internazionale e l'attacco. Allora, leggo però assieme a voi un'agenzia che è appena battuta. Il presidente dell'ANCI, inteso come i comuni italiani, Piero Fassino, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi ha dichiarato: il governo non può abolire l'IMU totalmente o in parte e far pagare il conto ai comuni. E poi ha chiesto l'erogazione ai comuni della prima rata 2013 e tempestività nella copertura della seconda, cioè i comuni vogliono i soldi che altrimenti avrebbero avuto dall'IMU. Comunque, alcuni sono furibondi per i dati che abbiamo raccontato su un IMU che è una tassa dei rifiuti che va tutta a scaricarsi sul mondo produttivo, e nemmeno, diciamo, il mondo produttivo che fa e macina utili. Lo so, cosa devo fare, che cosa devo dire? Anche secondo me è simbolo, diciamo, di un populismo sfrenato, per cui per risparmiare 4 miliardi e fare campagna elettorale si va a massacrare con 10 miliardi e con aumenti del 200-300%. Chi lavora, non ho altri commenti da fare. Resto invece sulla Siria e cerchiamo di riepilogare cosa è successo oggi a livello internazionale. Allora, l'NBC, rete colosso americano, citando un funzionario statunitense e altre fonti della Casa Bianca, ha sostenuto che l'attacco missilistico alla Siria da parte degli Stati Uniti potrebbe venire al più presto giovedì. Ieri gli ispettori delle Nazioni Unite hanno iniziato la visita in Siria, nella zona dove si sospetta siano state utilizzate armi chimiche mercoledì scorso, nell'attacco in cui sono morte centinaia di persone. Insomma, le immagini dei bambini e dei corpi le abbiamo viste tutti, ahimè, e purtroppo. La reazione sulle borse del Medio Oriente è stata immediata: meno 7% Dubai, meno 6% Kuwait, meno 4% la borsa dell'Arabia Saudita, che è la principale dell'intera area. Il premier israeliano Netanyahu ha detto che, a fronte di ogni tentativo di colpire Israele risponderà con forza. Il premier britannico Cameron ha convocato il Parlamento d'urgenza per giovedì. La Francia ha dichiarato che non vi sono più dubbi a questo punto sulle armi chimiche utilizzate e arriverà la risposta. L'Italia ha detto, per voce del ministro Bonino, che senza una decisione del Consiglio di sicurezza dell'ONU non intende prendere parte ad azioni militari. E poi anche la Lega Araba si è espressa dicendo che il regime di Assad, quindi il regime siriano, ha piena responsabilità del crimine orribile compiuto con le armi chimiche. Appunto, la piena responsabilità va attribuita al regime di Damasco. analizziamo rapidamente le borse e poi facciamo l'analisi di carattere più geoeconomico, come sempre con Radio Corriere sulle 24 ore. Borse male tutte oggi: Parigi meno 2,40, Francoforte meno 2,30, Londra tiene di più meno 0,70, l'America meno 0,60, Milano meno 2,34%. Paradossalmente, appunto, perdono più le borse di paesi, faccio l'esempio dell'Italia e della Germania, non coinvolti così direttamente. Comunque, Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Da noi pesa anche lo spread, che è continuato a crescere, 260 punti, e si è ridotta anche la differenza a nulla, praticamente ormai la differenza con la Spagna. Ma è più spread oggi o più Siria? Beh, certamente l'effetto Siria è molto più forte, si vede dal fatto che ieri, ti ricorderai, era stata Milano l'unica a viaggiare molto in negativo, mentre oggi sono un po' tutte le borse europee, e soprattutto vediamo anche settori come quello delle costruzioni, che è subitamente abbastanza esposto nel Medio Oriente, a essere molto, molto penalizzato, così come il settore dell'auto. Quindi diciamo che è veramente più un effetto di questioni geopolitiche piuttosto che una questione strettamente finanziaria legata all'Italia. E quindi non vediamo, appunto, che al di là delle banche, anzi il peggior titolo è Buzzi Unicem meno 4,45%, visto che tu citavi il settore delle costruzioni. Male oggi anche gli energetici, qui è un po' più inspiegabile. Di solito, insomma, tensioni in Medio Oriente, anche se la Siria non è un grande produttore di petrolio, spingono il prezzo del petrolio in rialzo. In effetti oggi il prezzo del petrolio è cresciuto di quasi il 3%, però Eni ha perso lo 0,20 e tutto il mondo dell'energia a 2A meno 3,43%, è risultato in calo. Enel Green Power meno 3,20%, Enel meno 3,40% anch'essa. Andrea? Sì, certamente Eni, diciamo, si è difesa per una parte della seduta nel pomeriggio, era anche in positivo, certamente seguendo l'andamento del prezzo del petrolio che tu ricordavi, oltre quota 109 dollari al barile, i massimi dal marzo dello scorso anno, più 18% indicativamente dall'inizio dell'anno. Certamente su alcuni titoli del settore energetico e delle utilities, in particolare A2A, pesa anche un realizzo normale, aveva fatto più 6% all'inizio dell'anno e più 48% all'inizio dell'anno e più 5% nell'ultimo mese. Va detto che Milano, con il ribasso di ieri e oggi, si è quasi giocata totalmente la performance positiva che aveva dall'inizio dell'anno, perché adesso il saldo positivo rispetto all'inizio dell'anno è più 1,9, quindi un'altra seduta di questo tenore e il bilancio dell'anno passerà in rosso. Ancora tra i titoli, adesso veniamo invece alle banche. UBI Banca ha avuto i conti leggermente migliori del previsto, eppure non è uscita, diciamo, dal mainstream, dalla corrente principale, meno 3,40%. Sì, oggi era un po' difficile distinguersi, c'è riuscita solo il Monte dei Paschi, dove pesano altri ragionamenti. Per quanto riguarda UBI, come tu ricordavi, appunto, un utile netto del secondo trimestre in calo, ma gli analisti hanno visto alcuni aspetti superiori alle attese nei conti del secondo trimestre. Va detto che ieri c'era stata una certa attenzione per le popolari, che pure avevano perso, per quanto riguarda il discorso di ritorno, di consolidamento e di riforma della governance delle popolari. Proprio UBI Banca, la prima interpellata nella conference call degli analisti, il suo numero uno Massià, ha invece escluso contatti in corso per il consolidamento, ha detto che potrebbe esserci uno scenario di questo tipo, ma non c'è alcun discorso, nessun contatto. Ecco perché tutte le popolari oggi hanno più o meno perso, a cominciare da UBI, come tu dicevi. Ancora tra i titoli, novità su Monte dei Paschi, perché sono ore, oltre che giornate, molto delicate e decisive per i vertici della fondazione. Sì, oggi c'è stata un'altra fumata nera e quindi non si è ancora arrivati a un accordo, sembra più difficile del previsto, nonostante i tanti nomi e le febbrili trattative degli ultimi giorni per trovare una guida dell'ente, che è un po' il primo azionista e quindi un po' il primo passaggio per poi andare a discutere tutti i passaggi successivi della ristrutturazione anche azionaria dell'istituto. Ancora, ieri era il caso di borsa, Mediaset con un calo del 6%, oggi mi sembra che il titolo, pur in negativo, insomma, non così male come ieri, meno 1,90%, resta sempre su livelli molto molto alti, quasi il 100% in più rispetto ad aprile. Sì, questo è vero, c'è da dire che Mediaset adesso va incontro, diciamo, facciamo un po' di analisi tecnica, a una resistenza importante che sono in quota 3 euro. Quindi per vincere quella resistenza ci vorrà, diciamo, una consistente quota di vendite, ma il discorso che tu facevi è assolutamente ragionevole, era difficile aspettarsi un altro meno 7%, anche perché oggi non sono state particolari novità sul fronte interno, il mercato continua a approfittare, a prendere un po' di realizzo per la situazione difficile dei mercati, ma questa quota 3 euro vedremo se nei prossimi giorni sarà vinta al ribasso. Ancora Telecom Italia, qui su Telecom ci sono varie incertezze di cui abbiamo parlato anche prima, diciamo, di agosto, il titolo in calo dell'1,80%, nonostante non sia un momento così negativo per le telecomunicazioni in Europa. No, assolutamente, le indicazioni che arrivano dalle operazioni di carattere straordinario, quelle di America Mobile sull'olandese KPN, quella di Telefonica sulla tedesca E-Plus, mostrano un settore effervescente che nel suo complesso non va peggio degli altri, anzi cerca di difendersi, anche oggi ha perso l'1,5 a livello europeo come indice settoriale. Su Telecom pesano ancora quelle incertezze che riguardano non solo il discorso scorporo a rete, ma soprattutto il discorso sull'azionariato, sul riassetto azionario, che probabilmente sarà un tema costante di questo autunno, e probabilmente sarà un autunno caldo, diciamo così, anche per gli azionisti Telecom e per la società telefonica. Ancora Parma trattiene anche oggi, vediamo i migliori e i peggiori in assoluto prima di concludere l'approfondimento di borsa. In positivo Banca Carige, vabbè, sul risparmio la Carige più 8,46%, Banco di Desio più 5,70%, poca roba, Caltagirone più 3% e Cape Listed più 2,25%. Fronte opposto PMS meno 6,12%, Media Contact meno 6%, TAS meno 5,50, Brembo meno 5,13%. Grazie ad Andrea Fontana, e adesso il traffico e poi cerchiamo di capire anche le implicazioni geoeconomiche di questo attacco da tutti ormai dato quasi per scontato nei confronti della Siria. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. C'era una volta la politica estera di Barack Obama, che aveva pochi e logici pilastri. Basta con il pantano delle guerre create da Bush figlio, quindi Afghanistan e soprattutto Iraq. La politica estera americana deve concentrarsi su quello che è la vera minaccia, o comunque il vero avversario, più economico che militare chiaramente, e cioè la Cina e tutta l'area del sud-est asiatico. Da lì la logica del disimpegno dall'Iraq, del disimpegno dall'Afghanistan, e concentrarsi nei rapporti, ripeto, più diplomatico-commerciali, ci mancherebbe che non di carattere militare, con la Cina, anche, diciamo, in una logica ogni tanto di braccio di ferro. Dico che c'era, e dicevo c'era, la politica estera di Barack Obama, perché con il precipitare della crisi siriana questa politica estera viene riportata brutalmente ad occuparsi del Medio Oriente. Ora, non è che sia successo qualcosa solo la settimana scorsa dopo le foto dei bambini gassati dalle armi chimiche, si calcola che i morti civili in Siria siano già 100.000, questo apre tutto il fronte alla polemica se, diciamo, l'intervento morale e militare morale debba essere fatto sopra una certa soglia di morti oppure no, e perché i morti siriani valessero meno di morti iracheni o di altri morti. Ma non è di questo che vogliamo occuparci, vorremmo capire quanto un intervento, per quanto tra virgolette chirurgico, dopo l'Iraq di chirurgico io ho visto molto poco, ma insomma, di missili lanciati su obiettivi sensibili del regime di Assad, come potrebbe cambiare e, passatemi il termine poco da diplomatico, incasinarsi tutta la situazione medio orientale. Ringrazio per averci aggiunto in collegamento Lucio Caracciolo, che è direttore di Limes, la rivista italiana di geopolitica. Buonasera. Buonasera a voi, grazie. Allora, Caracciolo, questo non è un programma di politica estera, ma di economia soprattutto, però è ovvio che oggi i mercati, sia sul fronte oro-petrolio che su quello borsistico, reagiscono alle tensioni e al dare per scontato l'attacco americano in Siria. Lei che previsioni fa sul fronte poi di quello che è anche la geoeconomia dell'area? Perché non stiamo parlando solo di qualche missile che va a colpire installazioni militari siriane, ovviamente. C'è la Russia che per esempio è nettamente contraria, ma non solo. Beh sì, la Russia è nettamente contraria, però essendo un paese che si regge sulla rendita energetica, il prezzo del petrolio o ben oltre i 100, forse 120 o 130 dollari al barile, non è che gli faccia così schifo. Quindi vi sono, diciamo, diversi livelli di politica, e certamente la politica militare o di sicurezza non sempre coincide con gli interessi economici e in particolare energetici. Non dobbiamo dimenticare poi che la questione siriana è solamente il teatro di scontro più evidente di una partita che coinvolge due grandi paesi produttori di idrocarburi come l'Iran e l'Arabia Saudita, che è poi la vera rivalità medio orientale, una sorta di guerra civile musulmana tra, chiamiamolo così, l'impero persiano sciita e il regno saudita, che trova diversi teatri di scontro. Abbiamo visto le primavere arabe, abbiamo visto l'Egitto, abbiamo il caso di Israele che si trova in una strana alleanza con un paese che certamente non lo ama né lo riconosce. Insomma, di fatto il Golfo è l'epicentro di questa crisi. Ecco, ma in una battuta, perché poi vorrei sentire anche Mario Platero che ci ha raggiunto in collegamento da New York, ma lei quante possibilità dà all'ipotesi di un intervento tra virgolette chirurgico, cioè c'è un'azione militare forte simbolicamente oltre che come efficacia militare, però tutto si ricompone in questo intervento? C'è chi ha citato il modello Kosovo, no? Quando gli aerei della NATO bombardarono. Non fu proprio chirurgico. No, bisognerebbe chiedere agli abitanti, infatti, quanto chirurgico. Sì. No, ma dico, dal punto di vista delle relazioni poi diplomatiche e quindi geoeconomiche, quante possibilità lei dà alla possibilità che appunto tutto poi si ricomponga? Diciamo che nel breve periodo mi pare una possibilità concreta, nel senso che l'idea americana è quella di prendere a sganassoni e Assad per 3-4 giorni, con risultati militari discutibili, ma salvando la faccia, cioè avendo dato un ultimatum che sanciva la linea rossa dei gas, delle armi chimiche, Obama non può semplicemente stare a guardare, ma non ha nessuna intenzione di trovarsi poi coinvolto nel conflitto. Il problema è capire che cosa faranno i siriani, ma anche gli iraniani, ma anche gli israeliani, insomma capire i fattori sul terreno, che cosa possono fare dopo un bombardamento di 3-4 giorni. Anche perché se poi si bombarda e fra qualche settimana o mese si riusano di nuovo le armi chimiche, voglio vedere quale altra operazione chirurgica verrà fatta. Ecco, Mario Platero, dicevamo in apertura, la vecchia politica estera di Barack Obama, concentriamoci sulla Cina, sull'Asia, sulla vera guerra commerciale e usciamo dal pantano di Bush figlio, Iraq e Afghanistan, crolla, non dico miseramente, ma crolla, perché in questo momento Barack Obama è obbligato a occuparsi di Siria. Quanto calcolo politico c'è in questo? Perché, ripeto, i morti sono tutti uguali e purtroppo se ne contavano già 100.000 prima delle immagini che abbiamo visto. E quanto, secondo te, Barack Obama è stato obbligato a occuparsi di Siria, pur, tra virgolette, non essendo il suo obiettivo? Mario? Barack Obama, sì. Eccoci. Sentite? Sì, molto, sì, molto, sì. Eccoci. Dicevo, Barack Obama è stato sicuramente messo nell'angolo da questo recente sviluppo. Pensate che qualcuno nell'intelligence pensa addirittura che possa essere accettato un errore fattuale da parte dell'esercito siriano, un cocktail sbagliato di agenti chimici, e che questa cosa non doveva succedere. Però questa cosa è successa e Obama, uno dei pochi senatori che ha votato contro la guerra in Iraq, che credo che sia poi intimamente un pacifista, si trova però chiuso nell'angolo, perché qui non è più l'interesse di Barack Obama, ma l'interesse dell'America e della credibilità del paese, della credibilità di Washington e della sua Casa Bianca, perché abbiamo ripetuto più volte la storia della linea rossa che non può essere varcata, ma a quello aggiungiamo anche rapporto complesso con la Russia, con Mosca, con Vladimir Putin, che continua a giocare con Barack Obama e con gli Stati Uniti, alzando sempre la linea della provocazione. L'abbiamo visto quando ha accolto Snowden concedendogli l'asilo politico, e poi Obama ha cancellato il viaggio a Mosca. E direi che a contorno di questo dramma, che da una parte è molto importante e umano, poi militare, c'è, come dicevi tu stesso, la parte politica, perché Obama la settimana prossima sarà a San Pietroburgo, nonostante abbia cancellato il viaggio a Mosca, parteciperà al G20, e credo che questo sarà uno dei G20 più caldi, perché si sta ribaltando completamente l'agenda politica, e bisogna vedere se Putin finirà per essere isolato a casa, perché la maggioranza dei 20 che parteciperanno a questo incontro saranno probabilmente schierati con gli Stati Uniti, forse con l'eccezione della Cina e di un paio d'altri paesi. Ecco, Caracciolo, per concludere, lei che se le vede ricadute e ripercussioni di carattere economico può vedere, perché la Siria non è un grande paese produttore di petrolio, non lo è assolutamente, però è chiaro che è in una regione totalmente fragile e dove, a cui i mercati guardano con estrema attenzione e sensibilità, per cui la reazione delle borse di oggi può essere anche una scusa, un pretesto, diciamolo tutto, con mercati ancora in parte estivi, oppure secondo lei può diventare qualcosa di più strutturale? Se l'attacco americano o angloamericano francese è veramente un attacco di 3 giorni, più o meno chirurgico, non credo che ci saranno particolari ripercussioni. Se il conflitto si estende, come è ben possibile, magari non immediatamente, e investe quindi l'area del Golfo, che è strategica per il mondo, ma lo è particolarmente per l'Europa, sempre meno per l'America, va sempre ricordato questo fatto, allora sono problemi molto seri, soprattutto per noi. Mario Pratelli, una battuta, perché abbiamo 2 minuti, poi è interessante vedere lo schieramento, magari faremo anche un approfondimento nei prossimi giorni. In questi casi l'America sempre è solo un alleato in automatico, che è la Gran Bretagna, no? E si ricrea questo asse atlantico, tra l'altro con un Cameron che è sempre più freddo nei confronti dell'Europa. Quanto peso ha avuto anche Cameron nel spingere Obama? Direi che c'è un alleato britannico, ma c'è anche un alleato francese. Francese, certo. Perché Hollande ha spinto moltissimo, direi che c'è stato un asse anglo-francese nel portare avanti questa linea, cosa che ha fatto molto comodo a Barack Obama, perché poi sono 2 importanti alleati, e ricordiamolo, sono 2 paesi che hanno il diritto di veto nel G5 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, quindi sì, hanno anche un ruolo dal punto di vista istituzionale e internazionale molto, molto importante, e quindi in qualche modo ha lasciato a loro l'iniziativa per poi seguire. Credo che non ci sia soltanto l'alleato britannico, ma ci sia un interesse franco-inglese anche in questa operazione. Grazie a Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes, grazie al corrispondente degli Stati Uniti del Sole 24 Ore, Mario Platero. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani con un'altra puntata di Focus Economia dalle 17 in poi, tutta la settimana infatti il programma termina ancora alle 18. Radio 24, la passione si sente.